Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi siamo in compagnia di Marco Malvaldi, ora in libreria con La carta più alta, pubblicata anche questo libro, pubblicato da Sellerio. Ancora una volta tornano i vecchietti protagonisti dei libri di Malvaldi, con i quali insomma Malvaldi è diventato famoso. Possiamo dire che stanno un po' diventando i tuoi personaggi seriali? No, non possiamo dire, lo diciamo, ormai sono diventati i miei personaggi seriali. Mi si sono impiantati nel cervello e non vanno più via. Ho tentato di disfarmene con il terzo libro, anche dicendo all'editore che non volevo più farli. L'editore mi ha detto: Marco, devi prenderti le tue responsabilità, che era una frase che di solito usava mia mamma, e lì ho soggiaciuto e ormai siamo rassegnati, fra virgolette, ai tuoi personaggi seriali. Diciamo subito che Marco Malvaldi scrive dei gialli molto ironici, diciamo, c'è molta ironia, insomma ci si diverte, però nello stesso tempo si segue una trama avvincente. Possiamo descrivere così in poche parole le caratteristiche di questi quattro vecchietti del barlume? Bar staccato lume, e poi spiegheremo il perché. Barlume in realtà è tutto attaccato ma con la L in mezzo maiuscola. Ed è, come molte delle buone idee dei miei gialli, un'idea di mia moglie. E i quattro vecchietti si descrivono abbastanza velocemente. Ampelio, il vecchietto che non sta mai zitto e che, se lo pensa, lo dice, è un ritratto di mio nonno. Mio nonno si chiamava Varisello, ho dovuto chiamarlo Ampelio perché Varisello era veramente troppo implausibile. Ed è una persona che dice tutto quello che pensa, quindi molto lontano dalla realtà di molti di noi, di quasi tutti noi. Aldo, il ristoratore, è un augurio, è una persona vecchia ma ancora lavoratrice, quindi un personaggio assolutamente plausibile nell'Italia di oggi, dove la pensione ce la sogneremo in molti. È un personaggio che ama la musica barocca, l'arte rinascimentale e le donne che respirano ed è, come dicevo prima, un augurio, come mi auguro di essere io a 80 anni. Pilade è il lavoratore comunale, quindi una specie di paradosso, una persona che ha passato la propria età lavorativa al bar e che ha visto bene di non cambiare abitudini una volta andato in pensione, quindi continua ad andare tutti i giorni al bar. E il Rimediotti, l'ultimo, che è la persona che parla per luoghi comuni, che si esprime per detti, per sentiti dire. È lo sputasentenze, un ruolo nel quale molto spesso ci ritroviamo tutti. Io prima ho specificato bar lume separato, perché ovviamente in radio non possiamo rendere la grafica, intendendo che questo è fisicamente un bar che si chiama appunto bar lume. Un gioco di parole particolare? Sì, è un gioco di parole perché è un posto dove si incontrano le chiacchiere. I bar, come tutti i luoghi di aggregazione, sono posti dove le idee rallentano, dove possono venire filtrate, dove si possono incontrare e dove possono dare luogo a qualcosa di nuovo, un po' come un acceleratore di particelle, dove due particelle si scontrano e danno luogo a nuove particelle. Nei bar le idee rallentano e riescono a dare luogo ad altre idee. Non a caso Marco Malvaldi ci parla di particelle, perché nella vita, oltre a fare lo scrittore, insomma, comunque sei laureato in chimica, hai fatto il chimico nella tua vita. Una cosa che mi ha sempre incuriosito di voi scrittori è che molti siete chimici. Mi sono ricordata Fulvio Ervas, Pier Sandro Pallavicini, ma ci sono anche altri esempi del passato ben illustri. Ma insomma, perché voi chimici a un certo punto della vita cambiate idea e decidete di fare gli scrittori? Prima, scherzando, ti dicevo, è qualcosa che annusate nei laboratori? Esattamente, qualcosa che annusiamo nei laboratori e che ci convince che è meglio cambiare aria. Io mi ricordo sempre di quando mia mamma mi faceva cambiare i vestiti sul pianerottolo al secondo anno di università dicendomi: tu con quella roba addosso in casa non entri. Però è anche vero che la chimica insegna tante cose, come diceva il buon vecchio Primo Levi, che è uno dei più grandi scrittori, secondo me, italiani di tutti i tempi. La chimica insegna la pazienza, insegna l'arte di cercare la ragione e la regola anche là dove ragione e regola apparentemente non ci sono, e soprattutto richiede pazienza e perseveranza. Tornando a questo romanzo, La carta più alta, i vecchietti del barlume questa volta indagano su qualcosa accaduto 20 anni prima, insomma sul passato. Come mai hai scelto così di andare indietro col tempo? Beh, è principalmente per un motivo di plausibilità. In un paese da 10.000 persone non si uccide un villeggiante l'anno. A meno che uno non abiti a Cabot Cove, che è il paese di Jessica Fletcher, dove ne uccidono uno la mattina e uno il pomeriggio. Quindi avevo bisogno di aumentare un po' la statistica. Quindi stavolta sono andato nel passato, la prossima volta farò commettere un omicidio lontano, e siccome l'Italia è un paese fondato sui cugini, metterò un cugino del barista a notare il fatto. Però è che avevo bisogno di un pretesto per far uccidere qualcuno in un paese da 10.000 persone per il quarto anno consecutivo. Diventava un pochino difficile, ecco. Anche perché, insomma, la signora Fletcher, diciamo che porta un po' sfiga a questo punto. Tu non volevi associare l'idea della sfortuna con i tuoi vecchietti? No, possibilmente no. È anche vero che la sfortuna può tramutarsi in fortuna se uno riesce a cavalcarla bene, come dicono le persone che si recano al funerale della propria suocera. Il fatto è questo, che secondo me bisogna sempre tentare di partire da un punto di partenza plausibile. Mi piace partire da cose che sono possibili, realizzabili, non dare luogo a incoerenze, non dare luogo a cose che possono essere notate come ridicole. Prima o poi succederà, però tento di ritardare questo avvenimento il più possibile. In questo romanzo, ma anche negli altri, com'è che questi quattro vecchietti portano avanti le loro indagini? I quattro vecchietti si comportano come dei diagnosti. Loro notano che c'è qualcosa che non va. Usano una caratteristica tipica dell'età avanzata, il cinismo e la saggezza. Si rendono conto, loro che hanno vissuto tanto, che qualcosa non va. E non risolvono affatto il dilemma, semplicemente notano che c'è stato un delitto, notano che è stato commesso un crimine. A risolvere poi ci penserà la parte giovane, l'intuizione, Massimo. Però loro hanno una parte fondamentale, accorgersi che qualcosa non va. Col pettegolezzo, con quello che gli investigatori di professione chiamano incrociare le informazioni, cioè se una persona dice a quattro persone diverse quattro versioni diverse, è chiaro che quella persona mente, ma se due persone danno allo stesso investigatore due versioni che per un dato non collimano, è chiaro che una delle due, non si sa chi, ma una delle due di sicuro mente, e a quel punto si incomincia a giocare. I quattro vecchietti, ormai li chiamiamo così, e il barlume diventeranno anche una fiction televisiva. Ci puoi dire qualcosa in più? La fiction verrà girata a Marciana Marina, purtroppo, nel senso che io sono di Pisa e il litorale pisano, che era stato in un primo tempo la scelta originale, è stato tramutato nel litorale dell'Isola d'Elba, bellissimo, e io credo che questo porterà comunque notevoli vantaggi alla serie, se non altro da un punto di vista estetico, perché non si può negare che l'Elba sia più bella del litorale pisano. Il personaggio principale, Massimo, sarà interpretato da Filippo Timi, che è un grande attore, uno dei vecchietti, il mio vecchietto preferito. Ampelio sarà interpretato da Carlo Monni, che è una doppia soddisfazione perché è un grande attore e in più è stata una mia scelta diretta, sono stato io a dire alla produzione vorrei lui e mi hanno fatto il regalo di compleanno. Agli altri attori che interpreteranno i vecchietti sono semplicemente fantastici, così come la ragazza che fa Tiziana. Lo so che può sembrare una sviolinata, ma sicuramente anche qui qualcosa andrà male, non sono gli attori, ecco. E allora, per arrivare preparati a questa fiction, leggiamoci tutti i libri di Marco Malvaldi, a partire forse dall'ultimo, dal primo, insomma non credo, non c'è un ordine. La carta più alta, pubblicata da Sellerio, con come tutti gli altri romanzi. Anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.